Gli insulti in perfetto italiano sono chiari ed intelligibili. Sabato sera all'esterno dello stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia, scontri e violenze tra ultra andalusi e supporter dell'Atletico Madrid. Nel video diffuso su internet si vede un tifoso madridista ferito al volto e accerchiato da ultra del Siviglia, e quelle parole fanno ora pensare gli inquirenti alla presenza di ultras italiani e a una rete internazionale di ultra capace di organizzare scontri a seconda delle gare più calde in programma ogni settimana sui campi europei. Tracce di questi hooligans migratori sono state già individuate in Inghilterra, verso i campi delle leghe minori, lontani dai riflettori della Premiership. Sabato sera, intanto, mentre l'Atletico conquistava per 2-1 la vittoria a Siviglia, un altro tifoso dei biancorossi sarebbe stato ferito da una coltellata a una gamba. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore.